Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. Cara Deborah, buongiorno. Ci sei o sei già partita per le vacanze? Ma dove vuoi che vada? Figurati, siamo ancora qua in prima linea perché dobbiamo raccontare ai nostri ascoltatori un sacco di cose più o meno interessanti, per cui no, per adesso non ho intenzione di spostarmi, ma quando sarà il momento di farlo mi sposterò di pochi chilometri, direi, perché quest'anno pare che dovremmo analizzare con grande cura la nostra meta di vacanza, visto che non siamo molto graditi in molte parti del mondo. Che ne dici? Ma tu c'è... invece che cosa farai? Ma io non lo so, per il momento, guarda, mi trovo bene qui negli studi di Radio 24, c'è anche l'aria condizionata, c'è qui davanti a me il multicrinito, il sempre più crinito Danilo Di Trani, ormai con una chioma, devo dire, fuori controllo, mi permetterei sì. modestamente. Comunque posso dire che non è colpa della pandemia, perché Danilo l'ha sempre avuta così, eh? Quindi adesso che non accampi scuse, lui proprio dal barbiere per rifinirsi la chioma non ci va volentieri, gli piace essere così uno scapigliato, ma e ci piace così Danilo. Però guarda, sono tranquillo perché è un rigoroso Peter Bescapè, controlla dalla cabina di regia, dalla sua Bene. Tabellone, tutto quanto. Naturalmente c'è sempre Marco Lombardo da remoto. Dunque, ma perché abbiamo cominciato parlando di vacanze? Vabbè. Perché volevamo così invitare tutti quanti a controllare sulla disponibilità o meno degli spostamenti. Allora, per quanto riguarda quelli, diciamo, all'interno delle regioni italiane, dal 3 pare, dico pare, che insomma ci sia una sostanziale tranquillità di movimento, ma invece per quanto riguarda varcare i confini, ecco, quello lì è un po' un problema, perché abbiamo tutti sentito della Grecia. La Grecia ha annunciato una lista di stati che però che possono recarsi nel paese, ma sono sottoposti a quarantena, e poi ci sono altri paesi che invece proprio chiudono le frontiere e non hanno intenzione per il momento di aprirle. Quindi insomma, ma se dovete andare fuori dall'Italia, controllate prima, perché potreste trovarvi in quarantena o potreste essere proprio anche respinti all'ingresso. Bene. Che dire, bene, ma non Deborah. Benissimo. Esatto, bene. E che dire che controlliamo un po' se ci sono delle belle possibilità nelle nostre zone per naturalmente fare la nostra vacanza estiva, ma dobbiamo fare qualche altra attenzione invece per altri aspetti. Perché, caro Mauro, probabilmente perché? Lo avrai letto, qualche spiaggia, qualche stabilimento balneare adesso per prenotare un posto in prima fila chiederà di fare una prenotazione telefonica. Non basterà, magari bisognerà prenotarsi attraverso un'applicazione. Molti stabilimenti si stanno attrezzando in questo modo, e quindi in spiaggia, ma anche in montagna probabilmente, circolerà prossimamente molto meno contante. E quindi sarà il caso di informarsi anche sui nuovi limiti sull'utilizzo del contante che scatteranno dal 1 luglio. Allora, noi stamattina, siccome sono dei cambiamenti interessanti in arrivo e sono generalmente sempre molto divisivi per i nostri ascoltatori, abbiamo pensato di così cominciare ad allertarli sulle nuove abitudini anche di utilizzo del cash a partire dalle prossime settimane. Scattano dei nuovi limiti da luglio, e quindi che ne dici? Ne parliamo stamattina nel nostro programma? Ne parliamo con una voce nota ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, che sarà Nicola Forte nella seconda parte del programma dalle 11.30, e possiamo parlarne anche naturalmente in diretta con gli ascoltatori. 800 24 00 24, se volete telefonare per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp. Contante, limiti al contante, uso del contante, non usate il contante. Posso dire un'ultima cosa invece, così un po' di sapore amarognolo per quanto riguarda le nostre vacanze? Che cosa è successo? Niente, ho letto sul Sole 24 Ore un ottimo lavoro sul Sole 24 Ore di oggi sul famoso bonus per le vacanze in Italia. Abbiamo già ricordato, appunto, se volete andare all'estero controllate prima perché c'è la quarantena o magari in banco vi fanno entrare. Se volete stare in Italia, allora, a certe condizioni, un ISEE non oltre i 40.000 euro, tanto per parlare molto chiaro, ci sarebbe un tax credit. Cioè, esatto, quindi già non si chiama bonus ma si chiama tax credit. Tutto quello che comincia con la parola tax davanti mi genera sempre un po' di paura. C'è pure l'inglese, capirai. Allora, ecco. dunque la sostanza è questa. Innanzitutto bisogna recarsi in edicola, prendere il Sole 24 Ore, oppure se volete anche in formato digitale per gli abbonati dal sito, lo trovate, il sole24ore.com, e andare alla pagina, credo sia la 5, la pagina 5, confermo. E niente, leggere prima di tutto l'enorme infografica che spiega come funziona, perché c'è uno sconto in parte erogato proprio come sconto, in altra parte invece bisognerà usarla nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. E poi è a misura, diciamo, secondo i componenti del nucleo familiare, se è più di uno il componente del nucleo familiare. E poi alla fine, insomma, bisogna avere anche lo SPID o la SPID, adesso non mi ricordo più se lo facevamo maschile o femminile questa identità digitale, e poi bisogna avere un'app, e insomma per adesso non si capisce tanto bene, però ecco, con tanta pazienza forse ci riusciamo a usare questo tax credit, insomma questo sconto. Infatti, per passare le vacanze in Italia. Tra l'altro Mauro, questa storia della SPID è importante perché ti ricorderai che è una condizione anche per poter chiedere il famoso incentivo per l'acquisto della bicicletta, eccetera. E qualcuno ha già ravvisato un flop per questo bonus bicicletta, proprio per il fatto che per fare l'operazione di richiesta anche al rivenditore di questo incentivo, che comunque è anche abbastanza sostanzioso, bisogna presentare con l'identità digitale, e questo sarebbe un po' un ostacolo per molte persone che non hanno voglia di avventurarsi in questo dialogo digitale con la pubblica amministrazione. Quindi sarà interessante tutto questo per che ne dici, lanciare un po' un'idea a Due di Denari, che ne dici di trattare questo argomento? Come si fa a fare questa identità digitale? Possiamo chiamare l'amico Enrico Pagliarini che ce lo spiega, perché qua abbiamo capito che sarà necessario questa nostra nuova vita per fare richiesta di tanti incentivi, bonus, tax credit, come vogliamo chiamarli, e quindi sarà necessario fare un piccolo vademecum. E allora lo faremo volentieri, perché poi tra l'altro per ottenere la SPID, io ricordo che ce ne eravamo occupati tempo fa, e non era una cosa così immediata, bisogna muoversi per tempo, e vedo la criniera, infatti la folta criniera di Danilo Di Trani, che è interessato al bonus elettrico, non dico altro, per ragioni di privacy, al bonus per le bici a pedalata assistita e altri strumenti di mobilità dolce. Ecco, egli scuote la testa in senso affermativo per dire sì, per avere la SPID è una roba un po' lunga, credo di intuire di là dal vetro. Quindi ne parliamo molto volentieri. Oggi però lunedì si fa Meteoborsa, o no? Facciamolo, perché guarda, abbiamo tante di quelle notizie questa settimana che non vedo l'ora di sapere tutto quello che succederà dal nostro ospite. Quindi partiamo. Meteoborsa. L'ospite di questa mattina, Massimo Saita, Head of Investment Advisory di Intermonte. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo una buona partenza, Mauro, te lo volevo già anticipare, per le borse europee una buona partenza di settimana, che in realtà sembrava molto più promettente in avvio, perché abbiamo avuto uno scatto di 1,5 punti su tutti gli indici, poi un pochino ci hanno ripensato e hanno rallentato. C'è da dire che molte piazze sono chiuse, oggi per la festività della Pentecoste, ma anche l'appello Francoforte, ma anche la Svizzera, se non ricordo male anche l'Olanda, e le altre borse però hanno deciso di così essere indifferenti rispetto alla mancanza, all'appello di molte sorelle finanziarie appunto europee, e vanno avanti con un rialzo dello 0,7% su Milano. Per quello che riguarda invece Londra abbiamo più 0,9%, Parigi in rialzo di 1 punto. Allora, stamattina c'era una grande attesa anche per la riapertura delle contrattazioni in Asia, perché i mercati erano un po' attesi alla prova delle parole di Donald Trump di venerdì scorso, che non ha annunciato, come si temeva, alcuna revisione dello status di partner commerciale privilegiato nei confronti di Hong Kong, e quindi questa è stata una buona notizia, prima cosa. Dopodiché si guarda adesso a quello che potrà succedere in settimana dal punto di vista della nuova riunione della Banca Centrale Europea C'è poi la disoccupazione americana, venerdì prossimo la disoccupazione di maggio, e qua ci aspettiamo un altro dato molto molto negante, molto molto negativo e molto pesante. E poi un'altra riunione rigorosamente in teleconferenza dei membri più la Russia dell'OPEC, quindi ancora una volta monitoreremo il prezzo del petrolio. È una settimana, una partenza per giugno molto intensa, ricordando che tutto sommato, Saita, partiamo da qua. Maggio non si è chiuso male e quindi il mercato guarda proprio oltre, vuole mettersi alle spalle la pandemia con tutta la forza possibile. È così, maggio ha smentito il classico detto vendi in maggio e vai in viaggio. Quest'anno maggio, forse è anche perché comunque venivamo da mesi difficili precedenti, è stato un buon mese ed è stato un mese che ha raccolto più che altro le speranze legate alle riaperture, cioè molti paesi europei hanno riaperto, la Cina ha cominciato a reingranare avendo aperto già da qualche settimana, se non da qualche mese, quindi c'è un po' la sensazione che la sperata ripresa a V non sia un'idea suggestiva da economisti, ma possa avere un qualche fondamento. Mauro, hai delle curiosità per Saita? Ma io, a dire la verità, sì, perché in queste settimane spesso ci siamo sentiti dire che comunque la volatilità è sempre presente e quindi anche questa tendenza positiva, questo colore positivo dei mercati negli ultimi giorni, insomma non vorrei che poi venisse smentito rapidamente da qualche rovescio. Saita, secondo lei questi tipi di recupero sono solidi a questo punto? Stanno poggiando su basi solide? Beh, è difficile dirlo, sono recuperi che sono chiaramente molto spinti dalla grande quantità di denaro che arrivano dalle banche centrali e quindi il gioco è un po' quello di anticipare quello che le banche centrali faranno. Questo si vede molto bene per la verità sui mercati obbligazionari più che su quelli azionari, che sono meno toccati da questo tipo di concetto. Dal mio punto di vista il punto è che la ripresa e quindi se vogliamo anche la volatilità è guidata da un fattore esogeno che non è controllabile, cioè la diffusione del virus. Queste ultime settimane ci hanno fatto vedere che anche riaprendo la progressione del virus non è stata quella temuta, cioè non c'è stato questo temutissimo incremento dei contagi, quindi per il momento tutto bene. Come andrà? Purtroppo non lo sappiamo, anche qui abbiamo indicazioni di vario tipo, c'è chi si aspetta una forte ripresa dei contagi in autunno, chi se lo aspetta per la fine dell'anno. Diciamo che in questo momento i mercati si godono il presente ed è un presente fatto appunto di relativamente pochi contagi, cioè di un'epidemia sotto controllo e di banche centrali che invece ci danno dentro per cercare di sostenere l'economia. Saita, le difficoltà in cui si trova Donald Trump in queste ore per la difficile situazione interna con i disordini di Minneapolis, di tutte quelle appunto questioni di cui sentiamo tanto parlare in questi giorni, secondo lei appunto sono un banco di prova anche per i mercati e l'anno elettorale, lo ricordiamo sempre, perché chiaramente il presidente americano prova a giocarsi tutte le carte possibili, anche quella delle ultime ore di ridimensionare un po' il contenzioso con Hong Kong, con la Cina e con Hong Kong, forse è l'ennesima carta che prova a giocarsi per guadagnarsi da altre versanti un po' di consenso elettorale dell'appuntamento di novembre. Che cosa ci dobbiamo aspettare secondo lei da questo punto di vista? D'altronde quello che succede negli Stati Uniti è sempre molto importante per tutti i mercati internazionali. Sì, quello che succede negli Stati Uniti è fondamentale per tutti, questo è vero. I fronti aperti sono tanti, hanno tutti ovviamente un risvolto vista l'imminenza della campagna elettorale su cui si gioca la rielezione di Donald Trump. Sappiamo che la sua strategia è quella di avere sempre un nemico, questo spiega un po' il ritorno del conflitto USA-Cina, è un conflitto che però si scontra con problemi interni a cui accennavate voi, appunto quello della questione della vicenda Floyd, e direi invece in positivo si interseca anche un po' con la questione del vaccino, che è stato un tema che è stato cavalcato nelle ultime settimane in senso, oserei dire, positivo, quindi un po' fuori dalla sua strategia canonica, ma comunque quello di dare in pasto ai media dei risultati positivi sicuramente, ma forse un po' sopravvalutati temporalmente su sulla ricerca del vaccino. Quindi abbiamo un Trump in effetti impegnato su molti fronti in un periodo comunque molto difficile, e quindi al di là della retorica, poi su qualche tema, come sembrerebbe essere questo appunto della ripresa del conflitto commerciale con la Cina, deve poi muovere qualcosa per cercare di tenere un po', diciamo, l'esercito schierato sui vari ecco. fronti. Mauro, volevo anche raccontarti un'altra cosa interessante che sta succedendo in questi giorni. Allora, giovedì c'è il nuovo meeting della Banca Centrale Europea, qua ci si aspetta un altro potenziamento nelle misure di stimolo e sostegno all'economia, ma in queste ore sul tavolo dei funzionari della BCE c'è un dossier importante che arriva dall'Italia e che riguarda il destino di Mediobanca, perché abbiamo appreso dalle cronache finanziarie di queste ultime ore che la Delfin, che è la cassaforte lussemburghese di Luxottica, di Leonardo Del Vecchio, ha depositato presso la Banca d'Italia, adesso l'operazione al vaglio appunto della BCE, questa istanza chiedendo di incrementare la propria quota in Mediobanca arrivando fino al 20%. Tutto questo forse per arrivare anche a generare, insomma, si è riaperta una partita finanziaria, Mauro, della quale io non sentivo parlare da tantissimi anni. Quando ho cominciato a lavorare al Sole 24 Ore, anch'io ormai un bel po' di anni fa, parlavamo di queste manovre quasi quotidianamente, dopodiché sono, come dire, un po' passate un po' meno alla ribalta della cronaca, tant'è vero che l'amministratore delegato di Mediobanca ha detto che si tratta di un'iniziativa vintage, quella di Leonardo Del Vecchio, quindi anche, insomma, questo gergo interessante che viene adottato per descrivere queste iniziative. E però, insomma, a me è sembrata una cosa molto interessante se consideriamo che avviene questa tentativo di operazione di scalata in Mediobanca in un momento in cui per i mercati c'è grande preoccupazione per tutt'altri temi. Quindi volevo chiedere a Saita un giudizio su che cosa ne pensa, cosa c'è dietro questa grande manovra finanziaria e come la considera, considerato appunto il contesto nella quale avviene. Allora, partirei dalla seconda parte della domanda e dicendo che in realtà questi periodi di grande crisi economica contengono anche, se vogliamo, implicitamente delle grandi opportunità, perché per chi è solido, per chi è liquido, il mercato finisce con presentare sconti su temi sui quali delle volte era già presente, come in questo caso per quanto riguarda Del Vecchio, oppure ne presenta di nuovi. Dicevo appunto che Del Vecchio era un tema, stava già percorrendo questo tema e aveva già accumulato una quota considerevole a prezzi decisamente superiori rispetto a quelli che si vedono in borsa adesso per Mediobanca. Quindi sicuramente ha la possibilità di alzare l'asticella, di farlo ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello che aveva avuto prima. Sul fatto che sia un po' vintage, in effetti è vero, è un'operazione un po' vecchio stampo, ma anche in questo caso devo dire, lo vedo nel complesso come un segno di vivacità e che non riguarda peraltro solo Mediobanca, ma nel tanto bistrattato settore bancario italiano. Comunque abbiamo anche un'altra operazione che è quella di Intesa su UBI e che potrebbe anche questa alla fine riservare qualche sorpresa, insomma. Quindi per andare un po' alla sintesi del discorso, non sempre le difficoltà di un settore o di un mercato lasciano presagire quali siano in realtà i reali interessi e quanto invece i soggetti più forti possano utilizzare proprio questa debolezza per cercare di impostare operazioni che invece in un contesto normale sono più difficili da realizzare. Quindi, insomma, in un certo senso anche questa crisi da pandemia può essere l'occasione per qualche rimescolamento, in sintesi, Saita. Direi di sì. C'è un detto nella politica americana che dice mai lasciare che una crisi vada sprecata, e direi che mi sembra questo sia un po' il caso. Si adatta bene forse anche alla nostra realtà, ma direi a molte realtà nel mondo, perché il tema M&A non è assolutamente soffitto in giro per il mondo. Allora, sai, grazie. Chi l'ha detto, Mauro? Che no. Noi abbiamo studiato. Ma quanto ne sai, Debora? Guarda, stamattina abbiamo avuto una lunga conversazione su questa cosa che mi ha appassionato tanto. Non lasciare mai che una crisi diventi un'occasione sprecata. Lanciamola agli ascoltatori, questa provocazione. Vediamo se vanno a cercare chi ha pronunciato questa frase molto bella. Che dici? Ma volentieri. Intanto noi andiamo al giornale radio e ringraziamo Massimo Saita, al giornale radio del risparmio, naturalmente. Massimo Saita, mm-hmm. Head of Investment di Intermonte, per advisory gestione, e ci sentiamo naturalmente tra pochissimo per il GRR. Amore, i soldi. Cara Deborah, telegrafici per ricordare che da oggi, sì, da oggi si possono presentare le domande per la regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori di agricoltura. Il decreto interministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono 500 euro per pratica di emersione e poi c'è un contributo che va definito. L'Agenzia delle Entrate ha dettato i codici tributo per il versamento con F24, quindi c'è tempo fino alle 22 del 15 luglio per presentare le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro con i cittadini stranieri. Il decreto è il decreto interministeriale tra Ministero dell'Interno, Economia, Lavoro, Politiche Agricole del 27 maggio. Spiega la procedura e dettaglia anche i requisiti che vengono richiesti. Prima notizia, il nostro giornale radio del risparmio. Prego Deborah. Ne diamo un'altra molto velocemente e poi direi che faccio la borsa altrettanto velocemente, perché il tema di questa mattina scatena già gli ascoltatori, che li sento già bussare alla porta di due di denari. E allora c'è un osservatorio che in realtà è costante su questo mercato ed è quello di Just Eat. È un'applicazione che molti di voi conosceranno, appunto perché è leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio. E allora l'ultimo osservatorio ha proprio monitorato quanti avessero attivato l'applicazione in concomitanza con queste settimane di pandemia in cui non abbiamo potuto frequentare ristoranti e locali, e molti di noi appunto hanno in realtà attivato tante applicazioni di vario tipo per fare la spesa a domicilio. Ed è anche il tema appunto che vorremmo affrontare quest'oggi, di cui ha scritto lunedì scorso il Sole 24 Ore, rilevando proprio come la pandemia abbia spinto moltissimo la sottoscrizione di nuove applicazioni ma anche di carte di credito. E allora, secondo l'ultimo osservatorio Just Eat, molti nuovi clienti si sono avvicinati al servizio in relazione a questa fase di emergenza, dichiarando ad esempio di non aver mai ordinato prima digital food delivery. Addirittura pare che il 60% di questo campione non solo non avesse mai utilizzato prima queste applicazioni, ma proprio non ne sentisse minimamente l'esigenza. Dopodiché, una volta che questo mercato si scopre, insomma, ci si affeziona e pare che si continui con serenità ad utilizzare questa modalità di consumare pranzi e cene, insomma pasti da casa. Ma il punto è capire quanto ci piacciono queste applicazioni, soprattutto per il fatto che tracciano molti dei nostri comportamenti, e questo è sempre stato un po' quel limite che hanno sostenuto tutti gli irriducibili del contante, Mauro, no? Per cui bisognerà tornare un po' a fare il vademecum dei nuovi limiti che partiranno dal 1 luglio. Esatto, e lo faremo tra pochissimo dopo l'aggiornamento sui mercati finanziari. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. E adesso le borse. Bravi, bravi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Due di denari. Allora, eccoci qua per parlare di contante. Perché? Perché distratti un po' da tutte queste vicende, ohimè, abbastanza pressanti del Covid e di tutte le proroghe, interventi, sospensioni, eccetera, eccetera, forse ci stiamo dimenticando di una scadenza che invece arriva, sta lì, nessuno ha pensato ancora di toccarla, ed è quella della discesa della soglia per l'uso del contante da 3.000 a 2.000 euro. Scatterà dal prossimo 1 luglio, ma ci guida in questa novità Nicola Forte, che è una voce amica di Due di Denari, nonché una firma storica, esperto del Sole 24 Ore. Buongiorno Nicola. Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah. Allora, innanzitutto è così, come abbiamo ricordato, dal 1 di luglio nessuno ha toccato quella discesa dell'uso del contante, quindi da 3.000 euro si passa a 2.000. Ad esempio, uno volesse andare in vacanza e pagare per più di un paio di mesi una casa, potrebbe essere necessario sborsare una cifra superiore ai 2.000 euro, mi viene in mente così, tra le cose che si possono fare. E quindi Nicola, come dobbiamo comportarci? Quindi dobbiamo pagare con qualsiasi altro strumento in grado di assicurare la tracciabilità. Non è detto che dobbiamo pagare con carta di credito, anche perché magari se il rapporto è privato e il soggetto proprietario dell'immobile è chiaramente è ovvio, un privato, non è il POS, ma posso pagare con bonifico, posso pagare con un assegno non trasferibile. Poi se il rapporto addirittura passa tramite un'agenzia, posso pagare all'agenzia, l'agenzia riversa il denaro al proprietario, anzi l'agenzia avrà anche un'incombenza, quella di operare una ritenuta appunto di acconto sul canone. Quindi ci sono diverse modalità. C'è poi, cara Deborah, una buona notizia per quanto riguarda le commissioni che i negozianti pagano per il POS. Sai che questo è un tema, per così dire, dolente e ricorrente, perché spesso quando affrontiamo questa tematica molti negozianti ci scrivono dicendo io volentieri userei il POS se le commissioni non fossero così onerose. E qui, Nicola, c'è anche qui una novità importante, perché c'è un credito d'imposta. Insomma, meglio che perdere l'ombrello, si direbbe, non è proprio uno scontone. Esatto, bravo, perché non è uno sconto che magari la banca con la quale ti organizzi per allestire questo servizio presso il tuo negozio ti fa, ma in realtà è lo Stato che in qualche maniera alleggerisce il peso fiscale su tutto questo. Interessante. Certo, è questa, diciamo, chiamiamola manovra di riserva o misura di riserva, nel senso che la prima idea, Deborah, era quella di in qualche modo di ridurre direttamente il costo delle commissioni. Poi si è compreso che questa manovra era difficilmente attuabile, abbiamo parlato di protocolli, di accordi con le banche, effettivamente si è compreso che non era possibile, allora sia pure ex post, dopo, nel momento in cui traccio tutte le transazioni effettuate, cessioni di beni e prestazioni di servizi, nei confronti di consumatori finali, quindi se vendo dei beni per l'attività di impresa del soggetto acquirente non mi spetta questo credito, e tracciate tutte queste transazioni sul costo delle commissioni, ho questo credito di imposta del 30%, considerando che il soggetto, che chiamiamolo il gestore della carta, colui che è tenuto a fare una serie di comunicazioni all'anagrafe tributaria, dovrà fare una serie di comunicazioni riguardanti questi dati, in modo che c'è il soggetto, l'agenzia delle entrate, che potrà controllare appunto il diritto del commerciante a spendere questo credito, che riduce perlomeno in parte 30% il costo delle commissioni. Che è un costo che, insomma, in qualche caso può essere molto molto basso, però in alcuni casi ci è stato segnalato, appunto, si può arrivare anche a 2 punti per 3 punti percentuali, quindi non è esattamente irrilevante per chi deve operare a contatto con il pubblico. Però volevo chiedere a Nicola Forte, esperto del Sole 24 Ore, ci sta aiutando a ricordare, a prepararci a questo obbligo che, ripeto, scatterà dal 1° di luglio, quindi la soglia per il contante che si abbassa dai 3.000 ai 2.000 euro. Volevo chiedere, ma se io uso adesso in questo periodo di lockdown e poi ripresa, necessità di distanziamenti sociali e quant'altro, si sono diffusi un po' questi meccanismi di pagamento con il cellulare, con varie app e così via. Questi sono comunque considerati pagamenti tracciabili, per così dire? Qui c'è un tema. Chi è il soggetto che... Perché tutto... Allora, sono sicuramente pagamenti tracciati, nel senso che non maneggio contante, quindi osservo le disposizioni antiriciclaggio che mi vietano di utilizzare proprio il cash, il denaro. Qui io non vedo alcun biglietto cartaceo, tanto per spiegarci, denaro virtuale. La norma mi dice: è vietato effettuare il trasferimento di denaro. Abbiamo dei problemi sulla linea, dottor Forte. La sentiamo, ma abbiamo dei buchi che purtroppo ci impediscono. La richiamiamo, perché se ci perdiamo qualcosa qui Deborah è decisivo, perdersi una negazione o un'affermazione. Prego. Dimmi. Infatti, no, questo è un aspetto che sicuramente vale la pena approfondire, perché poi sai che a livello europeo si sta anche discutendo della possibilità di utilizzare, di alzare, scusa, la soglia per i pagamenti contactless, che sono in qualche maniera un pochino anche quelli che stavi indicando. Adesso, per esempio, andando al supermercato è possibile utilizzare il bancomat appoggiandolo rapidamente sopra il POS del centro commerciale, però e quindi non devi indicare nessun tipo di codice riferito ai tuoi parametri bancari, ma è possibile farlo per spese che non superano i 25 euro. Adesso c'è questa sorta di moral suasion in Europa, tale per cui gli intermediari dovrebbero aumentare questa soglia almeno a 50 euro. Questo è un tema. E poi te lo ricordi tu la famosa storia del cashback? E cioè, se ci consentono di pagare con la moneta elettronica ovunque, in qualche maniera lo Stato dice: ti ridò indietro una porzioncina della spesa che hai sostenuto. Ma mi pare che da quel punto di vista grandi passi avanti non se ne siano fatti. Se non mi sono perso nulla, è una cosa di cui ragioneremo nel 2021, cara Deborah, quindi abbiamo ancora 7 mesi per abituarci e raccontarlo agli ascoltatori, mentre abbiamo solo un mese, abbiamo recuperato Nicola Forte nel frattempo, per abituarci alla nuova soglia del contante. Dottor Forte, scusi, abbiamo dovuto richiamarla per non perdere nulla, neanche una sillaba di quello che lei ci stava spiegando, perché esatto, siamo abbastanza interessati. Prego. Certo, io dicevo, sicuramente se faccio un pagamento tramite il cellulare rispetto alla disposizione dell'antiriciclaggio che vieta il trasferimento di denaro contante a soggetti diversi oltre la soglia. È evidente che non maneggio contanti, il denaro virtuale passa tramite il cellulare, quindi l'articolo 49 delle norme antiriciclaggio l'ho rispettato, non ho commesso alcuna violazione, quindi da questo punto di vista io sono sicuramente tranquillo. L'elemento di riflessione invece è un'altra, è l'aspettanza del famoso credito di imposta, perché qui ho il provvedimento direttoriale, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che in qualche modo disciplina questa possibilità e fa riferimento a pagamenti effettuati mediante carte di credito, debito e prepagati e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti da soggetti che effettuano comunicazioni all'anagrafe tributaria ai sensi del DPR 605, quindi 605 del 73. Quindi, nella misura in cui c'è l'obbligo di comunicare questi pagamenti che passano attraverso la rete, il credito di imposta mi spetta. Diciamo che questi pagamenti effettuati tramite cellulare sono relativamente nuovi. Ecco, la verifica che va effettuata è se ci sia questo obbligo di comunicazione, perché è uno snodo fondamentale per avere il diritto al credito. Perché non altrimenti l'esercente si troverebbe a non poter utilizzare quel pagamento per chiedere credito d'imposta, capisco bene? Esattamente, perché l'obbligo di comunicazione che ha disciplinato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è un adempimento che è necessario per mettere l'Agenzia delle Entrate nelle condizioni di controllare l'aspettanza del credito. Ora, non vi è dubbio che il pagamento col telefonino è un pagamento effettuato utilizzando un mezzo di tipo elettronico. Il passaggio però che va verificato è se ci sia un soggetto che abbia l'obbligo di fare quella comunicazione che ai sensi dell'articolo 7 del DPR 605 del 73. Se così fosse la risposta sarebbe positiva, se diversamente così non fosse, purtroppo questi soggetti per il momento sarebbero fuori e quindi non beneficerebbero del credito. È un passaggio che va verificato. A meno che il Ministero dell'Economia, cara Deborah, abbia ascoltato le parole di Nicola Forte e intervenga prima, certo, del primo di luglio per correggere, mi pare, per integrare. Il minimo. Vediamo, magari lo fa proprio mentre noi ascoltiamo il traffico. Due di denari. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non... Cara Deborah, innanzitutto ti voglio dire che hai scatenato un concorso vero e proprio con la... Davvero? Richiesta agli ascoltatori. Qui piovono le tentativi di risposta su chi ha pronunciato la frase non com'è la crisi, che invece non deve essere un'occasione sprecata. Ripetimela bene. Adesso te la... Allora, la frase è: non lasciare mai che una crisi diventi un'occasione sprecata. La si attribuisce a Winston Churchill addirittura, ma pare che successivamente, in tempi un pochino più recenti, un altro funzionario di un'amministrazione importante l'abbia richiamata più volte, e a noi è piaciuto di più appunto questa seconda interpretazione, diciamo. E quindi mi farà molto piacere capire come stanno rispondendo gli ascoltatori, che comunque possono anche intervenire stamattina all'800 24 00 24, raccontandoci se hanno cambiato le loro modalità, le loro abitudini di pagamento di beni e servizi anche a causa della pandemia. Non vi piaceva utilizzare il bancomat o la carta di credito, eravate degli irriducibili del contante e avete capito che però per farvi portare la spesa a casa in questi mesi è stato necessario invece utilizzare strumenti diversi? Vi si è bruciata la mano per utilizzare la carta di credito? Lancio la provocazione, Mauro, ovviamente, ma insomma sentiamo un po' se sono pronti anche a questa nuova ennesima rivoluzione dei limiti del contante che arriva da luglio. E peraltro, scusami Mauro, ma da gennaio poi c'è un altro ritocchino. Ma questo aspetta che lo chiediamo, non facciamo confusione, chiediamo bene a Nicola Forte di riepilogarci. Allora, da luglio scendiamo dall'utilizzo fino a 3.000 euro a 2.000 euro. E quindi, che tra l'altro saranno 1.999,99 centesimi, Forte, giusto? Perché esatto. Al numero 2.000 mi scatta già che sono fuori norma. Ecco. Esatto. E da gennaio invece cosa succede? Così ci prepariamo gennaio spiritualmente? Gennaio 2022, quindi abbiamo in realtà 18 mesi, abbiamo più tempo. E c'è un'ulteriore riduzione prevista. Esattamente, scendiamo a 999,99 euro. Ecco, ma se io supero questa soglia, che succede? Cioè, faccio un pagamento di 2010 euro, tanto per farla semplice. Significa che scatta una sanzione, e attenzione, la sanzione proporzionale viene erogata sia al soggetto che effettua il pagamento oltre soglia, sia al soggetto che riceve il pagamento oltre soglia. È ovvio che se io ad esempio do del denaro contante a un'altra persona, qui in concreto non è così facile poi riscontrare materialmente la violazione, no? Sotto il profilo documentale, proprio perché è ovviamente contante, anche perché ricordiamo una cosa, che nel momento in cui io vado in banca e verso denaro contante oltre quella soglia non sto commettendo alcuna violazione, perché la norma mi dice violi appunto la previsione quando dai denaro a un soggetto diverso. È vero che io consegno contante allo sportellista, a parte il fatto che oggi ci sono in molti casi le cosiddette casse automatiche, ma in realtà sto versando sul mio conto corrente, non sto consegnando a un altro soggetto. Lì abbiamo un altro problema: se verso importi in contante troppo elevati, la banca può fare una segnalazione di operazione sospetta e a sua discrezione. È un altro problema, ma non è una violazione. Allora, ecco, sostanzialmente, se capisco bene, dottor Forte, la vicenda è: se io faccio il negoziante al dettaglio e quindi ho tanto contante, perché magari vendo cose di poco importo, mi capita di versare contante e questo non fa scattare alcuna segnalazione. Se invece io che faccio un altro lavoro e parlo in radio, improvvisamente mi presento alla mia banca e verso, che so, 20.000 euro tutti in contanti, ecco che la mia banca potrebbe dire: chissà come mai improvvisamente tutta questa disponibilità di contante del signor Meazza, così, e quindi mandare una segnalazione di operazione sospetta. Certo, la valutazione l'ho fatta proprio caso per caso, quindi se io appunto ho il negozio in prossimità della banca, quindi ho anche un comportamento quasi abitudinario, ricorrente, dove ogni giorno verso periodicamente una somma, la banca non ha motivo di sospettare, fa una valutazione, ha una discrezionalità nell'effettuare la valutazione, quindi appunto caso per caso a seconda della situazione, come esattamente abbiamo detto pochi minuti fa adesso. Cara Debora, c'è più di uno che dice: io sono un entusiasta del pagamento tracciabile. Un ascoltatore ci scrive: pago il meno possibile in contanti, pago con bancomat, pago con carta, insomma tutto quello che può essere non il contante è gradito a questo ascoltatore, e non è l'unico, devo dire, perché in Mauro, molti... io l'ultimo prelievo bancomat l'ho fatto a febbraio, devo dirti la verità, non mi sono servite le poche cose che ho dovuto comprare in questo periodo, l'abbiamo fatto tutto con la carta, per cui non so tu quanti prelievi sei andato a fare, però oggettivamente sarebbe anche interessante effettivamente che il sistema bancario ci raccontasse in questo periodo come è stato operativo appunto il sistema degli ATM, no? Dove, che sono gli sportelli appunto bancari dove si vanno a fare i prelievi, e sicuramente saranno, credo, non dico crollati, ma insomma si saranno molto ridimensionati i numeri da questo punto di vista. Io ho un'ultima di quegli argomenti eterni quando affrontiamo questo tema per il dottor Nicola Forte. Allora, sanzione per negozianti e professionisti che non usano il POS, cioè non hanno a disposizione, non mettono a disposizione il POS. Se ne parla da anni, però la sanzione non c'è e non ci sarà, se comprendo bene. Nulla è cambiato su questo aspetto. Nulla è cambiato perché, se non ricordo male, sulla base di una pronuncia del Consiglio di Stato, vado a memoria, alla fine l'ultimo tentativo di prevedere poi una sanzione è naufragato, quindi abbiamo un obbligo non seguito da sanzione, che vuol dire concretamente un non obbligo. Ecco, diciamo, è anche una cosa che nessuno obbliga, chiaramente, il negoziante, il professionista a usare il POS, però nessuno lo obbliga a non usarlo, quindi volendo, e anche commissioni a parte, molti ci state ancora scrivendo delle commissioni, ne abbiamo parlato, abbiamo ricordato proprio in apertura di questo incontro con Nicola Forte, abbiamo anche ricordato che c'è un credito d'imposta del 30% sulle commissioni pagate proprio per l'utilizzo del POS. Ecco, dicevo, però non è che qualcuno punisce se il negoziante, il professionista usa il POS, anzi è una cosa tutto sommato abbastanza comoda. Certo, è comoda, è anche una questione di sicurezza, perché chiaramente il commerciante non conserva denaro contanti, e sotto questo profilo la procedura è sicuramente più sicura. Quello che in qualche modo posso assicurare, che io sono stato protagonista diretto, è un po' sgradevole, e purtroppo capita assolutamente, magari sono situazioni occasionali, quando la persona, il soggetto che fa la prestazione chiede un corrispettivo, poi quando io, ripeto, direttamente ho tirato fuori la carta di credito, quel corrispettivo lievitava un po' troppo, voglio dire. Ecco, queste situazioni bisogna fare particolare attenzione, perché poi creano anche un po' sfiducia, no? Io continuo a utilizzare carta di credito, bancomat, eccetera, però sono situazioni a cui bisogna un po' prestare attenzione. Perché poi il malcapitato di turno, caro Mauro, sai, gli ho snocciolato un paio di conti, gli ho detto che forse mi stava chiedendo un po' troppo per pagare con carta di credito, quindi bisogna fare un po' di attenzione. C'è più di un ascoltatore, Debora, forse siamo a due minuti dalla conclusione, ne abbiamo uno in linea, puoi provare anche se abbiamo solo due minuti. Giuseppe da Salerno. Deve essere telegrafico, Giuseppe, buongiorno, grazie, buongiorno, ci scusi. Buongiorno, io le volevo raccontare la mia esperienza per quanto riguarda l'utilizzo della carta. Io a Salerno, con una, tramite, diciamo, la carta che ho per il conto corrente alla banca, non riesco a prelevare da nessun altro bancomat 50 o 100 euro. Devo andare per forza alla filiale dove è stata emessa la carta. E questa è una cosa assurda. È una schiavitù, diciamo. Ma mi sembra una cosa che funziona solo per il primo prelievo, o non so, Nicola Forte? No, in genere no. Mi serve 100 euro, vado, utilizzo la carta che mi è stato detto che posso prelevare da tutti gli sportelli, ma vado a uno sportello tipo Banco di Napoli. Sì, va a un altro sportello e non può prelevare. Non ho soldi, devo andare solamente alla mia filiale. Esce, certo, un messaggio, errore, ci mancano i soldi, che storia è qua. Certo, ma magari Giuseppe non ha negoziato questo tipo di apertura, nel senso, mi sembra abbastanza strano, no? Forse avrà concordato all'inizio un contratto magari poco oneroso per i prelievi e la banca le ha detto, no, se prelievi solo da noi non ti facciamo pagare per il prelievo, altrove molto spesso c'è anche un piccolo onere, una piccola commissione, così ipotizzo, però è così un pensiero in libertà. Non so se Nicola Forte vuole chiosare a proposito. Anch'io la penso così, perché poi è la prima volta che sento una cosa del genere, nel senso che si può prelevare anche da Bancomat di altri istituti con una commissione che normalmente è un paio di euro, però se prelevo presso altre agenzie dell'istituto dove ho il conto corrente posso prelevare ovunque in tutta Italia. Non ci sono queste limitazioni geografiche. Grazie. Allora, con una ottima puntualità, cara Deborah, diamo appuntamento a domani. Certo, parliamo di certo. Viaggi, voucher, rimborsi certo. e dintorni. Tanto il ponte non può farlo nessuno e quindi infieriamo ancora ulteriormente sugli italiani che hanno qualche difficoltà con la vacanza quest'anno. A domani. Va bene, a domani.